Quel giorno che tu mi sa, ho perduto la mia testa, sai perché? Da quel giorno più non dormo, pensa a te. Oe Marie, tu però la faccia mia, te la faccio in compagnia, ma con chi? Con qualcuno che al mio cuore tira di. Marie, Maria, fammi dormire, ah, fammi dormire, Marie. Con te, solo con te, solo con te, perché? Oe Marie, oe Marie, ho per sonno in mare strato, sono pezzo che inguaiato, sai perché? Quando sto per prender sonno, pensa a te.